21.05, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza come ogni mercoledì, quindi anche per oggi, 1° marzo del 2017, inizia questo spazio storico ormai, prove tecniche di trasmissione. Esistente dal lontano 1992, quindi siamo nel 25° anno di esistenza. Il telefono di questa radio è 06 49 1750. Il sito internet è www.ondarossa.info, anche per lo streaming. Per le comunicazioni mediante posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info. Si può seguire questa trasmissione anche attraverso lo spazio Facebook del sottoscritto, DJ Elettrodo, e trovare domani playlist e podcast sia qui in questa pagina testé nominata, ma anche in quella di prove tecniche di trasmissione / disorder. Ricordo alle 22.30 circa 25 o'clock che andrà a concludere questo mercoledì. Cominciamo con il salutare Alessandra qui da Roma, Giovanni da Bari, Antonio da Firenze, Wurlus Eilin dalla provincia di Asti, Riccardo da Taranto, Mariolino non lo so, non mi ricordo mai da dove ci sta sentendo Mariolino, e il buon Raffaele Pezzella da Napoli. Infine Like Wake qui da Roma. Mentre noi andiamo ad iniziare con questo ultimo lavoro di Globo Oscuro insieme a Braga Seden, artista spagnolo, si chiama Imperfectus Ellipsis, un progetto che ormai i più affezionati conoscono e che in alcuni frangenti mi ha anche ricordato il miglior Nars with Wound. Da questo lavoro ci ascoltiamo For Crimen Silenti. Crimen Silenti. E dunque abbiamo iniziato con Globo Oscuro di Emiliano Pietrini, che salutiamo, che sta all'ascolto in questo momento da Livorno. Imperfectus Ellipsis, suo ultimo lavoro in combutta con Brage Seden, spagnolo. Abbiamo scomodato dei paragoni eccellenti e illustri come Nars with Wound e Zovet France. Suggerimento di Antonio, che salutiamo di nuovo da Firenze. Aggiungerei anche le avanguardie di Stockhausen, Luigi Nono, eccetera eccetera, tutta la tradizione della musica contemporanea che ben conosciamo. Visionario di spessore, mia vera e propria fissazione, Globo Oscuro. Una traccia, questa, Crimen Silente, che praticamente ci siamo ascoltata, ce la siamo ascoltata tutta nei suoi 15 minuti circa. Dunque, Raffaele Pezzella, spesso menzionato da queste parti, e lo facciamo ancora nel caso di questa compilation che riguarda la scena più sotterranea del Portogallo, ormai è un viaggio che abbiamo intrapreso parecchie settimane fa e che sta per giungere al termine. Portugal Experimental Underground System Survey. Oggi ci ascoltiamo tre artisti, ossia Luis Santero, Pink Draft e Zga. E cominciamo con Luis Santero, con questa Mo Contact Mic. Era tu. Era dunque Luis Antero, da questa compilation dedicata al Portogallo, ideata da Raffaele Pezzella. Andiamo oltre. Lui è Pink Draft e questo è Carpe Mortem Noctem, Carpe Noctem, con questo sax lancinante. Comunque abbiamo scoperto che Mario Lino Stancati proviene dal profondo sud, dalla Calabria, come Antonella, che salutiamo, che ci sta ascoltando dalla Sicilia. Ancora da questa compilation si va avanti ancora con un brano dal Portogallo, loro sono Zga, questo è Tempest Aid. Anche qui il contenuto è altamente visionario. Zga, Tempest Aid. Thank you. Ringrazio ancora una volta Raffaele Pezzella per le esaudienti spiegazioni riguardanti questi artisti ai più sconosciuti, me compreso. E quindi invito di nuovo chi ci sta ascoltando di andarsi anche un po' a visitare questo Unexpressed Sound Group, questo gruppo Facebook, indirizzato ai più interessati verso un certo suono sperimentale. Peraltro Zga era anche un nome di un altro vecchio progetto di circa 20 anni fa che ho avuto il piacere di vedere qui a Roma, ma loro provenivano dalla Lettonia. Erano più di impostazione jazz rispetto a queste sonorità che ci stiamo ascoltando. Fecero un tour per i centri sociali e purtroppo poi venni a sapere qualche giorno dopo che uno di loro, uno di questi musicisti, rimase purtroppo ucciso da un scaldabagno difettoso che gli provocò praticamente una morte per la corrente elettrica. Rimase fulminato, insomma, mentre stava facendo una doccia. Un ricordo un po' macabro, devo dire. Ma il nome di questo progetto portoghese me l'ha fatto tornare in mente. Adesso invece andiamo un po' ad ascoltare una vecchia conoscenza. Lui si chiama Non. Tutti voi, quelli che stanno all'ascolto, almeno molti di voi lo conoscono. Non come dietro si nasconde Boyd Rice, come tutti sapranno. E abbiamo qui un vecchio lavoro di circa 20 anni fa dal nome Might. Artista controverso, ma sicuramente poliedrico e molto eclettico. Ci ascoltiamo le prime tre tracce: Non Nirvana, You Who Fall e Credo. This world is no Nirvana, where peaceful pleasure flows. It's a gruesome butcher shop where slain men hang in rows. The surface of the soil is a lethal chamber. The bottom of the sea a charnel house. Both are littered from pole to pole with the ruins of forgotten civilizations that men and nature have delighted to destroy. Everywhere and always, the debilitated have perished. Everywhere and always, the mightiest have won. As it was in the beginning, it is now, and ever shall be. Power, slavery, pain, joy, side by side, forever. season, giant turtles, 5 foot by 3 in diameter, travel uproot from the sea to lay their eggs. En route, they were set upon by packs of wild dogs, and these dogs roll the turtles over upon their back, and then devour them alive by tearing out their unprotected entrails. When the dogs are gorged, they in their turn fall an easy prey to ambushed tigers. Then hunters kill these tigers with their variegated skins. Rank grass springs up after the rainy season through the skulls and bones that litter this tropical Golgotha, and droves of cattle gather there to fatten. Again, the cattle are hunted for their hides, horns, and flesh, and their bones are also left where they fall to manure the valley and prepare it for new generations of hunters and hunted. Such is in miniature a picture of the everyday world as it actually is. All living beings are pursuing and being pursued. Woe unto those that stumble. Woe unto ye who fall. Intanto salutiamo Maurizio Pustianaz in arte Gerstein, che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane e ci sta ascoltando dal Piemonte, Riccardo Martucci da Taranto. Mentre sta andando verso la conclusione questo Might per quanto riguarda Non. artista, ripeto, conosciuto anche sotto lo pseudonimo Boyd Rice e con le sue collaborazioni per esempio con Douglas Pearce. Ma in altri contesti, qui contaminati con situazioni etniche, stiamo parlando di Siamgda. Questo è il suo ultimo lavoro, Reborn, che esce per la Teutonica Anzen. E se si riesce ascoltiamo Homeless, Between Love and Hate e Back Off. Thank you. Ancora Sam Da. 21:54, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, prove tecniche di trasmissione in onda. Sam Da da Reborn. Salutiamo anche Cesar Naves dalla Spagna, Riccardo Giacinto dal Portogallo, credo. E intanto noi si va a voltare pagina. Lui era Sam Da, dimostrazione vivente dell'estrema ecletticità dell'antezen, come si discuteva qui con il buon Antonio ed altri. Le spiazzante contaminazioni, giustamente definite da Alessandra, di Sam Da. Elettronica, tribalismo, il volgere lo sguardo verso altri mondi, mondi lontani. Questo lo fa Mark Fischer, proveniente dalla Germania. Da qualche anno ha cassato presso, per l'appunto, la Antzen con ottimi risultati, compreso questo Reborn. Una versione, diciamo, più ancora più elettronica del compianto Muslim Goes. E da queste sollecitazioni tribali ci inoltriamo invece in un mondo molto più dilatato e rarefatto, appartenente a Pussy Mary. Lei è tendenzialmente noise, ma qui invece, in questo brano dal nome Everything Stays the Same, estratto da Sigis, mostra un suo volto abbastanza diverso, più fermo e tra virgolette immobile. Eccola qua, Pussy Mary.